continuazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radiazione, lunedì 23 marzo, oggi come tutti i lunedì faremo la diretta con la controinformazione e la lettura di Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki. Ricordo, come ho ricordato già venerdì scorso, che lunedì scorso c'è stato un problema sul microfono, noi abbiamo fatto tecnico. Una diretta, però ci ascoltavamo solo tra me e Marcello. E quindi oggi, sia venerdì, ho ripreso io tutta la controinformazione, tutta la sezione della controinformazione che doveva andare anche in onda lunedì. E oggi riprenderemo ritorneremo indietro con Nessuno ci salva, e così recuperiamo anche per i podcast, visto che, come detto anche nell'ultima diretta, sta funzionando pure molto bene. Non lo so se ci dobbiamo preoccupare, perché le ultime volte, però no, sono podcast quindi significa che non c'è podcast, nessuna, finché si collegavano 300 persone, non c'è trucco insieme, e non c'è inganno, non ci sono trucchi. E quindi allora anche per i podcast decidiamo di tornare indietro e rileggere quel capitolo che non è stato letto, cioè che è stato letto ma non è stato ascoltato durante la diretta. Problemi dei flussi internet. Eh sì, i flussi internet. Allora ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione@radiazionechiocciolinautistici.org per chi vuole scrivere a Radiazione, mandare notizie di controinformazione. Qualcuno, se si vuole degnare anche di mandare qualche traduzione, è sempre ben accetta. Consigli specialmente sulle letture che si fanno il lunedì, in cui siamo per finire quasi per finire quasi. Nessuno ci salva, quindi chi ascolta, abbiamo visto che siete in tanti, se ci date un consiglio ogni tanto, visto che finora non ce ne sono stati in 3 anni, ci sono gli ascolti ma nessuno ci ha mai consigliato un bel libro da leggere su Radiazione, siamo fiduciosi finché c'è vita c'è speranza, almeno sui libri, sui consigli dei libri, questo sì. Allora il sito di Radiazione invece che è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata. Ricordiamo che non stiamo aggiornando molto frequentemente ultimamente, perché nell'ultimo periodo sta andando in rete molta roba su cui noi come Radiazione, sia Radiazione Italia che quella croata, non siamo d'accordo sul materiale che si sta diffondendo attraverso vari siti, blog, e anche quello che ci arriva attraverso le mail per quanto riguarda la controinformazione. Abbiamo letto un testo, l'abbiamo tradotto anche noi in inglese, perché nessuno si degnava di tradurlo, non che il testo sia una pietra miliare, però comunque era una critica allo sciopero della fame che stanno facendo molti, quasi tutti i detenuti anarchici in Grecia, richiedendo delle abolizioni su delle leggi che, io ricordo, gli anarchici non chiedono abolizioni ma cercano solo la distruzione, come gli stessi detenuti anarchici fino a qualche tempo fa, gli stessi detenuti anarchici greci dicevano, invece ora chiedono abolizioni. E quindi noi queste cose abbiamo deciso di non pubblicare, non far circolare idee malsane. Sullo sito di Radiazione potete anche scaricarvi un bel po' di materiale attraverso la pagina dei download, libri, opuscoli, cd, tutto quello che i compagni ci mandano per metterlo a disposizione gratuitamente ai compagni. Ricordiamo che chi lo scarica e lo mette in diffusione a sua volta, se ci ricava su qualche soldino, si ricordi che esistono delle casse di solidarietà anarchica che servono a raccogliere soldi e mandarli ai compagni detenuti in galera. I compagni detenuti in galera è stato un rafforzativo. No, cioè, se sono pure i detenuti ai domiciliari, comunque sono sempre detenuti. Sul sito di Radiazione potete anche riascoltare le dirette d'azione attraverso la pagina dei podcast, oppure andare a vedere il sito di radiazione in lingua croata, per chi conosce il croato, chi non lo conosce resta su quell'italiano, oppure va da una guardata al limite con Google Translate, ma non ve lo consiglio, non lo consiglio vivamente a Google Translate. Radiazione sia come sito che come radio sono ospitati dal server anarchia.net, messo a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, che salutiamo e ringraziamo sempre, tra cui su The Anarchist Library è stato pubblicato il testo di radiazione quelianamente. Detto questo, abbiamo detto tutto, abbiamo dato tutti gli indirizzi utili per radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano dei Teen Rauncher, il brano è Blitzkrieg Prop, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la prima lettura per oggi di Nessuno ci salva. Invece per la controinformazione oggi leggeremo almeno una parte, tutto quello che riusciremo a leggere per oggi, e poi il resto lo leggeremo nelle dirette a venire, il documento di il lungo documento del compagno Gianluca Iacovacci. Teen Rauncher e dopo Nessuno ci salva. We'll be right back. gli amici pensano ad Oleg. Stavolta Pavka aveva preso sul serio la cotta. Tutto le piaceva in Costantino Samenta. Trovava intelligente ogni parola che gli usciva di bocca, giusto ogni suo desiderio, geniale ogni sua idea. Ed era felice quando poteva assecondarlo nei suoi capricci e prevenirlo nei suoi desideri. Samenta accettava queste testimonianze d'amore apaticamente, con passiva indifferenza, ma questo accendeva ancor più Pavka. Non chiedeva che di servire con supina devozione il suo Dio. Un giorno gli propose di andare ad abitare da lei. «Senza di te mi sento così sola», gli confessò, ma egli rifiutò sdegnosamente. «Figurati se voglio vivere in un simile bugigattolo, dove non avrei neppure una stanza tutta per me. Non parliamo poi di un bagno o di un gabinetto. Per te è indifferente lavarti nel mastello e correre a fare i tuoi bisogni giù in cortile, ma io non ci sono mica abituato. Quando avrai una casa decente, allora chissà, forse se ne potrà riparlare. Costantino caro, Samenta, farò tutto ciò che vorrai, ma ora mi sembra un po' prematuro. Lascia che guadagni un po' di denaro in più, allora potrò traslocare in una casa più bella e più degna di te, e quanto più denaro avremo, tanto meglio potremo vivere. Non avertela male, tesoro, ma il tuo stipendio è così modesto che non basterebbe a vivere a te stesso. Tu non ti preoccupare, io me la so sempre cavata benissimo senza di te. Ma non te la prendere, Costantino Samenta. Se lo dico è perché ti voglio bene. Pavka comprava per il suo amante dei costosi regali e faceva di tutto per conquistarlo, ma le sue premure ottenevano ben poco successo. Costantino non sembrava disposto a perdere la testa per lei. Un giorno lo invitò a cena e quando, dopo un banchetto copiosamente innaffiato di vodka, furono a letto, gli disse: «Sai che ti dico, tesoro? Ho fatto i miei conti. Posseggo circa 500.000 di rubli. Il negozio vale almeno altrettanto. Inoltre ho molti oggetti di valore, gioielli, vesti, pellicce e molto altro. E volevo arrotondare ancor più il mio capitale, ma se tu preferisci mando tutto a monte, affitto un appartamento nuovo e ci sistemeremo insieme. Non avrai da vergognarti della tua Pavkita. Sono giovane, bella, sana e ti amerò per sempre. Tutto quello che ho è tuo. Basta che però mi voglia un po' di bene, perché mi sono accorta di non poter più vivere senza te». Samenta si sentiva soddisfatto della sua vanità, vedendosi oggetto di queste effusioni d'amore, ma pensava che c'era sempre tempo per parlare di vivere assieme. Preferiva tirare le cose in lungo, sfruttare più che poteva la sua amante e riservarsi la libertà d'azione. Oltre a ciò, non era mica uomo senza ambizioni. Non voleva legarsi per sempre ad una borghesuccia. Anche lui, come Tolus, il parrucchiere, sognava donne del gran mondo, il lusso, le comodità e la ricchezza. Ciò che possedeva Pavka non bastava mica alle sue segrete aspirazioni. A dir la verità, si vergognava un po' a farsi vedere in giro con lei. Era sì una bella ragazza, ma così volgare, così lontana dal suo ideale di donna. E se appena poteva evitava di uscire con lei quando Pavka esprimeva il desiderio di fare due passi in centro, di andare al cinema. Sì, andava a trovarla, ma solo di sera tardi, quando, seguendo un impulso d'amore, Pavka si era azzardata ad andare all'ufficio investigazione a cercare di lui, egli l'aveva condotta fuori in anticamera e l'aveva sgridata piuttosto aspramente. «Che sia l'ultima volta, hai capito? Che cosa ti è saltato in mente di venire qui? Non voglio avere guai per colpa tua e soprattutto non mi va che la gente si burli di me!» «Ma perché mai dovrebbe burlarsi di te? Sono forse storpia o gobba? Che cos'è che mi stai dicendo?» «Ho detto che non voglio e basta, se hai proprio bisogno di vedermi!» «Allora puoi venire a casa mia prima delle 9 del mattino, oppure lascio una lettera in portineria, ma non farti più vedere qui, nel mio ufficio!» Ma questi fatti non influivano sull'affetto di Pavka. Essa si attaccava sempre più al suo burbero amante. La primavera era ormai giunta al suo colmo. Dopo un aprile ancor fresco venne un maggio tiepido e soleggiato. La pianta dei lilà che cresceva vicino alla porta dell'alloggio di Pavka si era ornata di pesanti corimbi che diffondevano intorno un delicato profumo. Quel cespuglio fioriva proprio sotto la finestra di Jan e i rami entravano col sole nella stanza nella quale si affaccendava Nashtka cantando. La ragazza, pur essendo convinta che Jan non l'amasse, era perfettamente felice. Si accontentava di essere apprezzata da lui come compagna e di procurargli come donna qualche soddisfazione. Era piena di tatto con lui, non lo molestava mai, non gli chiedeva mai nulla. Un giorno arrivò perfino a dirgli: «Non ti devi sentire legato a me, Jan. So di essere, sì, una ragazza come tutte quante le altre, e mi rendo conto che la mia compagnia a lungo andare può annoiarti, e se hai voglia di vedere altre donne, non fare complimenti. Non te ne farò mai un rimprovero. Di questo puoi esserne certo». Jan la guardò stupito. La sua simpatia per Nashtka aumentava di giorno in giorno. Come era semplice, sincera, equilibrata! Anche il legame dei sensi lo univa a lei. Aveva un corpo così fresco, così giovanile. Non si poteva amarla che di un amore sano ed istintivo, senza perversioni né raffinatezze. Da qualche tempo la situazione finanziaria di Jan era andata peggiorando. Dato il regime di terrore che incombeva sulla città, i dritti dovevano lavorare con la massima prudenza, e il lavoro era sì scarso per la spietata concorrenza di innumerevoli ladri improvvisati. Ormai si poteva dire che rubavano tutti, dai soldati bolscevichi fino ai borghesi rovinati, dai più alti funzionari rivoluzionari. I mercati erano vuoti. Nessuno si azzardava a portarvi della merce che in qualsiasi momento poteva essere requisita da chiunque appartenesse alla cricca dei nuovi padroni. Il commercio era paralizzato e i contadini non si facevano più vedere in città. Non si trovava neanche più neppure la rigna da ardere. I furti più redditizi erano quelli di genere alimentari, che poi si potevano cambiare con oggetti di prima necessità come scarpe, stoffe, eccetera, eccetera. Certi articoli poi erano quotatissimi sul mercato nero. Con un chilo di sale, per esempio, si potevano avere 2 chili di zucchero di burro. Solo in pochi ristoranti, e questi protetti dalle autorità rivoluzionarie, si poteva ancora mangiare discretamente. Si poteva trovare di tutto: cioccolata, vini esteri, caffè e anche cocaina e morfina. La scarsezza di viveri era tale che uno stipendio di un impiegato poteva bastare sì e no a consumare un pranzo al ristorante. questi erano Placebo Effect con il brano Move, dopo la prima lettura per oggi di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecchi. Ora, come ho detto all'inizio, oggi, almeno per quanto riguarda la controinformazione, sarà improntata tutto sullo scritto del compagno Gianluca Iacovacci. Compagno, lo ricordo, arrestato e accusato di alcune azioni a firma FAI, di cui alcune ne ha rivendicato la paternità, arrestato insieme all'altro compagno Adriano Antonacci, a tutti e due rinchiusi ora nella sezione di Gianluca è chiuso nella sezione di la S2 di Ferrara. Il lungo testo che è stato messo sotto forma di opuscolo a titolo Facciamo finta che tutto va bene, che tutto va bene. Uno scritto a napalm di Gianluca Iacovacci, prigioniero anarchico. Questo mio lungo scritto arriva con un ritardo dovuto a diverse ragioni che lo hanno tenuto a impolverare non solo in questa cella ma anche nella testa. Per la seconda volta è stato sequestrato dalla polizia politica, che ormai non ha neanche più l'interesse a restituire quello che spia e intercetta nella sua squallida routine. A giugno 2014 decisi di pubblicare uno scritto sulla mia posizione di rifiuto del processo e della difesa legale e inerente soltanto a queste due cose, ma venne sequestrato dalla busta spedita che arrivò solo con la mia richiesta di pubblicazione. Forse i contenuti a vetriolo non sono piaciuti ai tutori dell'ordine democratico. In quel caso poi venni superficialmente avvisato dell'inconveniente dopo più di un mese, cosa che non mi portò molta allegria, e le immancabili critiche, consigli e tra virgolette illuminanti e chiacchiere del salotto anarchico mi fecero desistere dal praticare un dialogo pubblico, ripiegando su quello diretto e privato rispetto alla mia posizione processuale, che cosa che forse non è stata la miglior scelta. Decisi poi di scrivere un secondo testo più complesso che sarebbe dovuto uscire entro fine 2014, ma l'ennesima volta è svanito nelle nebbie della censura non ufficiale. Ne ho approfittato per ampliarlo, aggiornarlo, lo si capisce in alcuni punti, e arricchirlo soprattutto per gli argomenti che vado a trattare e per evitare le solite furbesche svincolate dei più professionisti oratori del salotto di movimento. Purtroppo bisogna adeguarsi al loro livello di paraculaggine e furberie sulla dialettica. Non vi nascondo di non essere certo un buon scrittore con la S maiuscola, e le fatiche che faccio nell'esternare i miei pensieri e contenuto purtroppo non ho avuto la fortuna di poter stare molto sui banchi delle istituzioni scolastiche, visto che il pane sotto i denti prevalse sui libri sotto gli occhi. So che probabilmente le mie parole verranno trasformate in semplici provocazioni o in torto assoluto dalla più professionale e intellettuale dialettica riformista di movimento, che si attiene al pensiero unico delle comuni ragionevolezze politiche di struttura collettiva. Ma questo non importa, perché le mie parole rappresentano prima di tutto me stesso e sapranno farsi vedere di fronte al valere, di fronte alle chiacchiere, rispetto alla mia integrità individuale. Le mie parole non sono indirizzate ai giudici né ai tribunali, visto che ho rifiutato il processo. Ho rifiutato avvocati e ogni funzionalità inquisitoria, istanze di difesa comprese. Non accontenterò attese dichiarazioni romantiche che vanno per la maggiore. Metto in chiaro che non ho alcuna causa o dovere impellente di smuovere o di svegliare un movimento che poco si muove se non a gregge, dove gli amplificatori e i riflettori mediatici si accendono su quello che passa la lotta. Non è questione di fazione o comportamenti stagni, come si usa dire ora, e che a creare è proprio chi ha un incomprensibile bisogno di etichettarsi anarchico, notav anarchico, ma di affinità e coerenza di pensiero e prassi indivisibili. Anarchiche e le mie sono certamente incompatibili e inconciliabili con linguaggi e politiche riformiste dei movimenti nei movimenti. Perciò mi risparmierò i professionismi da dibattito romantico, amorevole, da grande famiglia, visto che rispetto alle grandi famiglie sociali io sono orfano da riformatorio e un figlio di nessuno, che però si confronta e che condivide con chi non perde la bussola diretta della liberazione totale, a sovvertimento totale del presente in maniera anarchica e con le idee anarchiche rivoluzionarie in tutte le sfumature, ma non quelle riformiste. Non mi sento quindi di contribuire, se lo faccio, al confronto in maniera acritica e conciliante per il bene collettivo con un movimento anarchico. Ho preso un totale che francamente faccio fatica a distinguere da quello notavo, un movimento istituzionale cittadino, o da uno dei diritti civili democratici, pieno di inerzie della politica di sinistra anarchica, vecchia e marcia sotto la bandiera del riformismo radicale e della lamentela sociale. Certamente non sarò più molto conciliante e pagato, visto che si blatera di confronto, ma si intende quello a senso unico del pensiero unico, dato che quando criticai l'autoritarismo e gli effetti collaterali del fronte Notav, sembrava di essere preso per il critico della fazione antisociale che impediva l'imminente rivoluzione in Valsusistan, mentre l'unica cosa imminente era forse una serata polenta e salsicce, non violenta naturalmente, e a Bardonecchia. Lo stesso potrei dire quando criticavo e rifiutato certe politiche riformiste e vittimiste sui processi che, quando mi riguarda, da anarchici e anarchiche, almeno nel linguaggio, andrebbero affrontati in maniera anarchica, ritrovandomi a subire un altro processo con l'accusa di ostruzionismo alle politiche riformiste del movimento anarchico e alla generale rassegnazione vittimistica. Rompo un mio lungo e irritato silenzio dopo diversi mesi, ma potrei dire quasi tutta la mia carcerazione, in cui francamente mi sono sentito marginalizzato ed estraneo non rispetto al movimento anarchico, in cui metto in chiaro di non identificarmi, dato che non condivido omologazioni collettive generalizzate, ma affinità, piuttosto nei confronti di un linguaggio e mezzi al ribasso con cui si affrontano la repressione, i processi e l'approccio alle lotte sempre più disastrosamente tendenti al riformismo. Per il resto si sa come trionfino tendenze mediatiche, trend di lotta del movimento, isterie collettive notave, fuochi che bruciano più di altri, le solite cose. Preferisco tenermi al margine come sono sempre stato, rispetto alle pastoie da e con la società civile, ai compromessi sociali, popolari, perfino, e questo è triste, nelle rivendicazioni di azioni dirette e distruttive. Scrivo ad una sola testa e una sola mano, con il cuore, il pensiero e l'amicizia uniti a quelli di Adriano. È passato più di un anno oramai dal giorno del mio arresto e quello di Adriano, settembre 2013. Tuttora ci troviamo reclusi separatamente in sezioni di alta sicurezza in due carceri differenti. Ora anche Gianluca si trova a Ferrara. Questa era la prima parte giusto per iniziare oggi la diretta dello lungo scritto di Gianluca. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Rabbi Jung con il brano dal titolo Civilized, e poi dopo si torna qui con un'altra lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Take it on the world. Tempo molti ladri di professione si diedero al banditismo. In ogni caso, se si era per la fucilazione, non era quindi il caso di avere troppi scrupoli, e poi era più facile lavorare con le armi che con i grimaldelli. Le rapine si facevano sempre più frequenti di notte in tutti i quartieri, e echeggiavano improvvise sparatorie talvolta così violente da sembrare operazioni di guerra. Jan e Kasik Morecki da qualche tempo si erano rintanati in via Slepianka. Avevano trovato come soci due fratelli, Michele ed Andrea Mischenko. Michele era elettrotecnico e, grazie al suo mestiere, conosceva benissimo i vari uffici della città, dove era andato più volte a fare delle installazioni o a riparare degli impianti. Era facile quindi per lui trovare dei lavori interessanti senza dar troppo nell'occhio. Andrea, l'altro fratello, invece, faceva il falegname ed era da molto tempo in contatto con i dritti, presso i quali godeva di molta stima, come suo fratello maggiore. Dato che nessun sospetto gravava su di loro da parte della polizia, i due fratelli potevano essere molto utili ai professionisti dritti, fornendo loro preziosi consigli o magari dando anche una mano in caso di necessità. Jan si recava di solito al mattino presto in casa di Mischenko, presso i quali da parecchio tempo abitava sotto falso nome Kasik Morecki. Questi si intendeva un po' del mestiere di falegname e, dato che Andrea teneva bottega facendo del resto magri affari, non era mica difficile farlo passare come apprendista. Jan passava volentieri la sua giornata con loro, progettando imprese e colpi di ogni genere. I due fratelli facevano frequenti ricognizioni in città, usando molta prudenza per non mettere la polizia sulle tracce dei loro nemici. Anche Caro, il cane, si era ormai abituato a stare in un angolo della falegnameria. Jan gli aveva allestito una comoda cuccia e gli portava ogni giorno qualche cosa da mangiare, ma il bastardo, nonostante tutte queste premure, non si era del tutto ammansito e si mostrava un po' diffidente verso il suo benefattore, benché in minor misura che con gli altri. Di sera Jan, a meno che non ci fosse in programma qualche scappata, ritornava a casa, dove Nashtka lo attendeva sempre sorridente e serena. A volte si sentiva un po' impacciato di fronte a quella devozione fedele, a quell'amicizia così schietta e devota. Che cosa poteva offrirle in cambio? A poco si insinuò nel suo cuore come il senso di essere colpevole verso di lei e di aver agito male accettando il suo amore. Cercò di diventare anche lui più premuroso, di rendere reale l'aggettivo che essa univa sempre al suo nome, di essere cioè un po' più caro con lei. Incominciò a interessarsi a Nastka più di quanto non avesse fatto finora e a darle la sensazione di avere in lui un vero amico che la proteggeva e l'amava. Cercò perfino di non pensare più a lei come donna, ma non vi riuscì, travolto dall'appassionato amore che la giovinetta gli manifestava. E quando egli stesso rimaneva nella propria stanza per evitare che la vicinanza di Nastka mandasse a monte tutti i suoi buoni propositi, passava delle notti inquiete, piene di sogni libidinosi e di incubi malsani, dovuti al suo esuberante temperamento. Più di una volta Nastka aveva aiutato Jan nel suo rischioso lavoro. Portava gli strumenti, andava con la refurtiva del ricettatore, teneva il collegamento tra Jan e i suoi colleghi, fece persino di sua iniziativa un nascondiglio per articoli proibiti nel deposito della legna, tirando su in un angolo una tramezza che sembrava una delle pareti della baracca, ma scostando due asse si poteva entrare in un angusto ripostiglio compreso tra la parete e la tramezza. Jan lodò il suo lavoro e utilizzò subito il ripostiglio, nascondendovi parecchia roba che era meglio non lasciare in giro. Nastka ne fu fiera e felice. La scarsità di denaro angustiava Jan, che per un lungo periodo di tempo era stato abituato a vivere con larghezza di mezzi. Se fosse stato solo ci avrebbe fatto meno caso, ma il fatto di dover pensare anche a Nastka lo spingeva a cercare affannosamente qualche fonte di guadagno, cosa che coi tempi che correvano si faceva sempre più difficile, e arrivò al punto di rubare perfino delle patate per non doverle comprare. Ma proprio in quel periodo venne a sapere che Filippo il Calvo lo stava cercando per metterlo a parte di un suo progetto. Quando riuscirono a vedersi, il vecchio ladro gli espose la sua idea. Si trattava di questo. Il cassiere dell'esecutivo municipale si recava tutti i giorni verso le 9 alla banca per prelevare una grossa somma di denaro che a volte raggiungeva l'importo di alcuni milioni di rubli. La banca era così vicino al suo ufficio che egli vi andava a piedi con la scorta di un soldato armato di fucile. Il denaro lo portava in una borsa di tela cerata stretta con una cinghia di cuoio. I due amici si consigliarono circa il modo migliore di impadronirsi di quella borsa che per parecchio tempo avrebbe risolto le difficoltà economiche in cui si trovavano. Jan non perdette tempo e il giorno dopo, verso le 9 di mattina, si appostò nelle vicinanze del comitato esecutivo municipale. Pochi minuti dopo vide uscire dall'ingresso principale un uomo vestito in borghese che portava sotto il braccio sinistro una borsa incerata nera, seguito qualche passo di distanza da un soldato con il fucile a tracolla. Jan li seguì lungo il breve tragitto che dovevano percorrere per arrivare alla banca. Vi entrò anche lui, fermandosi però nella sala centrale affollata dal pubblico, mentre il cassiere spariva dietro una tramezza di legno sopra la quale c'era un cartello con la scritta «Cassa». Dopo un quarto d'ora uscì e prese la via di ritorno, seguito come prima dal soldato, dirigendosi verso la piazza della cattedrale. La borsa era strettamente legata con una doppia cinghia ed egli la portava tenendola sotto il braccio. Jan continuò a pedinarli, stando sempre sul marciapiede opposto. Quando vide il cassiere rientrare nel suo ufficio, ritornò sui suoi passi e si mise a esaminare attentamente l'intero percorso e le vie adiacenti per studiare le possibilità di fuga una volta che il colpo fosse eseguito. contraception. Questi erano di Algoritmo con il brano Null. Ora si ritorna allo scritto di Gianluca, riprendendo da dove ci eravamo lasciati. A marzo 2014 ci fu una breve udienza preliminare per decidere di fare un rito abbreviato al posto di uno ordinario, semplicemente per non fare dibattimenti processuali, confronti, testimonianze, perizie, eccetera, eccetera, che personalmente non mi interessava sviluppare in tribunale. In quella stessa breve udienza, l'unico a cui si è potuta presenziare, scoprì che venne decisa dal giudice di procedere con l'applicazione della videoconferenza al nostro processo. Con questa decisione la Corte processuale mise in chiaro che io e Adriano non avremmo potuto rivederci nelle eventuali altre udienze, approfittando semmai per farci un giro, oltre al fatto che entrambi saremmo stati presenti solo tramite collegamento video da una stanza attrezzata appositamente nel carcere, intubandoci così definitivamente nelle sezioni di alta sicurezza. Questa ulteriore azione repressiva e sadica dei giudici, oltre che soddisfare le loro normali pratiche di annichilimento e spersonalizzazione, è stata messa in atto sia per presunte politiche di risparmio economico del Ministero carcerario che per motivi di sicurezza, mentre sono semplicemente le prime fasi dei programmi europei delle supercarceri e sezioni speciali in cui annientare i prigionieri rivoluzionari e socialmente pericolosi. Al di là delle politiche o decisioni dello Stato democratico che impone la sua autorità, Evidente anche come il fascismo tecnologico è sempre più predominante e incide ormai sulle vite, artificiandole e facendo della tecnologia una protesi umana a servizio del controllo e della repressione. Dopo l'udienza preliminare, decisi di non volere avvocati sia di fiducia che ovviamente quelli di ufficio imposti dallo Stato. Ho scelto di rifiutare il processo e le sue funzionalità perché non riconosco le istituzioni che combatto nei loro tribunali e non ho alcuna intenzione di assecondare compromessi per convenienze o sconti ottenuti con le arringhe degli avvocati che minimizzano e corrompono azioni e rivendicazioni. Non voglio briciole dallo Stato e non ho alcuna intenzione di sostenere le rassegnate vittimistiche politiche passive su processi e repressione di parte, quasi la totalità del movimento anarchico e movimenti sociali. Ormai certe maniere, posizioni e metodi su come affrontare i processi e la repressione sono diventati standard da parte dei militanti della giurisprudenza e dei diritti civili democratici con la cerchiata. Si continua a mettere in atto una lotta di piagnisteo riformista basata sul vittimismo, sul reclamo e sulla lamentela, se non addirittura sul richiamare consenso della società civile, giornalisti, magistrati, parlamentari, intellettuali, eccetera, come garanzia di Stato di diritto. Che schifo. Per me questa è spazzatura riformista sociale, il tutto poi per lamentare assurde accuse e ingiuste applicazioni di codici penali, quando l'unica cosa assurda è chi millanta anarchia rivoluzionaria, distruzione dell'esistente, slogan ormai svuotato dalle chiacchiere, liberazione totale e poi pratica riformismo radicale in democrazia e in linguaggio socialdemocratico. La mia scelta impenitente contro il processo non è una decisione passiva, non sono io, come pensa qualcuno, a stare in balia della situazione, ma voi. I processi vengono ormai lasciati in balia delle arringhe in tribunale come ideologia militante della compromissione totale, nell'attesa lacrimante con le mani giunte in preghiera, riconoscendo il ruolo dei tribunali, soprattutto sulla società domesticata, pacificata, del linguaggio da tribunale nei comunicati e testi e i giochini con le procure, facendo poi le vittime perseguitate. Tutto viene lasciato ormai in mano all'assistenzialismo giuridico, che dovrebbe riguardare al massimo il supporto legale tecnico prigioniero avvocato, alla militanza da studi legali anarchici nelle aule di tribunale, a maneggiare scartoffie e fascicoli giudiziari, a tifare le arringhe degli avvocati compagni tra virgolette contro le assurde accuse e piangere ingiustizie. Tutti a bocca aperta come uccellini tremolanti nel nido ad aspettare, sbraitando reclami, boccone che vomiterà mamma giustizia e se cade, per concessione dello Stato, un'accusa o un articolo penale. Cosa? Si festeggia e ci si asciuga qualche lacrimuccia. Fiu! È andata bene. Si festeggia da te o da me. Che schifo! Vince la democrazia alla fine, ottimo palliativo e anestetico per momenti difficili, tanto criticabile e constatabile da distruggere e rinnegare, ma solo sulle paginette dei giornali buscoli anarchici, sparate su internet in cui dà sfogo a una semplice libertà d'espressione appena condita di slogan e immagini aggressive, un'esclamazione da brivido, ma per il freddo. Questa politica democratica di tutela legale tra presunti anarchici, oltre ad essere uno schifo, mostra che si strizza l'occhio alle possibilità di diritto e dei diritti per ora migliorabili, finché i tempi sono così. Certo, dopo presenteremo il conto come i No Global legalisti del G8 a Genova, a grido di pagherete caro, pagherete tutto, ma forse era riferito alle spese legali o ai risarcimenti danni. È così che si sta ormai intorno ai processi, nelle aule di tribunale, è così che si continua ad aspettare passivamente il giudizio dello Stato sulle teste dei suoi nemici, senza fare distinzione di scelta processuale alla sbarra. Si sta ad aspettare la prossima udienza o appello, tra un'istanza o un'iniziativa da comitato cittadino antagonista per sapere se è caduta l'accusa di terrorismo o l'associazione sovversiva, a fare conto degli anni meno le attenuanti generiche, poi un comunicato solidale e semplice aggiornerà. Francamente una sensazione di nausea e vomito pervade, soprattutto per quello che ha circondato il processo, ma potrei riferirmi in senso generale, perché questa politica riformista predominante per il silenzio assenso è diffusa soprattutto negli ambienti sociali. Con queste miserie vince la democrazia, ed è così che veramente il potere mantiene il suo ruolo sociale coercitivo sulla società e si tiene saldo, tiene saldo il suo riconoscimento, lasciandovi un'anarchia di rappresentanza nelle istanze legali, un'anarchia morta in movimento, ma morta per chi corrotta nel pensiero e piena di chiacchiere contraddittorie nel suo esistere legale e del concesso. Questa era la seconda parte dello scritto di Gianluca. Ora ci ascoltiamo un brano, questo lo dici tu, Einstürzen Neubauten, alles wieder offen, e poi dopo si torna qui con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki, e poi dopo ancora la lettura del testo di Gianluca. Und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab, wie das Ende Feuerstelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Mahngeschwür. Die Zukunft, die Folge nach Folge, Resultat. Tür, Tor, Wein, Hose, Bluse, Hemd und Haar. Die Fontanelle Schlucht. Und die Bar, die Runde der Schmerz, die offene Marktwirtschaft, das Messer. Jacques Offenbach, es ist alles wieder offen. Ja, alles wieder offen. Alles, es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. trovandosi più tardi con Filippo, concertarono assieme il piano in tutti i dettagli. Filippo si sarebbe fermato con l'automobile all'angolo di via Bogada nel corso del governatore. Nell'istante in cui il cassiere avrebbe imboccato quest'ultimo corso, Jan da dietro gli avrebbe strappato di mano la borsa e avrebbe raggiunto con un salto l'automobile che frattanto avrebbe avviato il motore. In tale occasione, evidentemente, non ci si poteva servire dell'autista di Crivonshine. Bisognava assolutamente trovare un dritto disposto a guidare la macchina. Dopo un momento di riflessione, Filippo il Calvo si batté la fronte con il palmo della mano. Accidenti! Mi dimenticavo che Ajour è un autista di prima classe. Ebbè, se non accettassi, obiettò Jan, beh, riusciremo a persuaderlo, vedrai. Noi due andremo insieme e quando il cassiere starà per voltare l'angolo, io lo sorpasserò, salirò in macchina e terrò la portiera aperta. Dovremmo essere però tutti e tre armati, perché se le cose dovessero mettersi male faremo un tale pandemonio che a nessuno verrà la voglia di inseguirci. Jan si ricordò che in queste occasioni i dritti usavano spesso il tabacco o anche il pepe per gettarlo negli occhi delle vittime al momento giusto. Filippo, interpellato su questo punto, rispose: «Oh, ma certo, un bel miscuglio di tabacco e pepe è indicatissimo. Io, per conto mio, ci aggiungerei anche un po' di vetro pestato, non so se mi spiego», e spalancò la bocca in uno sbadiglio. Quando Jan e Filippo esposero il loro piano ad Ajour, questi continuò a fischiettare per un po' di tempo senza rispondere, poi alla fine chiese: «Ebbè, la macchina cosa?» fece Filippo. «La macchina sarà targata, immagino». «Si volta la targa e buonanotte, anzi, la toglierò del tutto». «Beh, credo che sia meglio rendere leggibile il numero e coprire col fango le stelle rosse». Il tono disvogliato di Ajour dimostrava chiaramente che non l'entusiasmava l'idea di prendere parte all'impresa. D'altra parte, non voleva lasciare nei pasticci i compagni che senza di lui non avrebbero potuto eseguire il colpo. Sapeva anche che Jan si trovava in difficoltà finanziarie e questo lo decise finalmente a dare la propria adesione. Filippo, tutto soddisfatto, si diede una fregatina di mani, ma subito dopo si riprese, assumendo, secondo il suo stile, un'aria grave e compunta. Dopo che l'azione fu discussa in tutti i suoi minimi particolari, Filippo si recò all'albergo Europa a telefonare perché mandassero subito la macchina. Volevano percorrere insieme il tragitto che avrebbero seguito dopo aver fatto il colpo. Fatta questa prova generale della fuga, i tre amici si separarono. Ian si recò alla Komarovka, comprò un pacchetto di tabacco da naso, lo fece ben asciugare e poi lo tritò mescolandovi del pepe finché divenne quasi impalpabile. Poi tirò fuori dall'armadio una vecchia giacca e un cappello stinto perché i testimoni del colpo non potessero fornire particolari precisi sul suo abbigliamento. L'indomani tutto si svolse secondo i piani. Alla solita ora il cassiere uscì dal suo ufficio per recarsi alla banca. Il soldato di scorta gli si trascinava dietro svogliatamente col fucile spallarma. Le falde del cappotto troppo lungo gli si impigliavano tra le gambe e gli stivaloni sproporzionati al suo piede rendevano malsicuri i suoi passi. Sembrava che camminasse sugli sci la guardia rivoluzionaria. Il cassiere prelevò dalla banca circa 1 milione, dispose le banconote nella borsa, la chiuse e strinse le cinghie, poi fece segno al soldato e uscì in strada. A pochi passi lo seguivano Filippo e Jan, ambedue armate di pistola. Jan aveva pronta una manciata di tabacco e pepe con la quale avrebbe accecato il cassiere al momento giusto. Il traffico nella strada, che era una delle principali artere di Minsk, era animatissimo e i marciapiedi erano affollati di gente. Il gruppo stava avvicinandosi alla via Bogada. Filippo toccò col gomito il fianco di Jan, affrettò il passo e oltrepassò il cassiere, voltò a sinistra dove l'automobile era appena giunta e attendeva con il motore acceso. La targa era imbrattata di fango in modo che non se ne potesse più distinguere il numero. Anche la carrozzeria era stata talmente impolverata e insudiciata che Jan la riconobbe a stento. Ajour chiamò Filippo come se avesse riconosciuto un vecchio amico. Ambedue si misero a parlare animatamente, l'uno colpito sull'acceleratore e una mano sul volante pronto a partire a tutta velocità, l'altro con un piede sul predellino e una mano sulla maniglia della portiera pronto a saltar su e a lasciarvi salire anche Jan quando questi fosse balzato con la borsa verso l'automobile. Intanto Jan, con la mano sinistra affondata nella tasca della giacca, prese una manciata di tabacco e pepe. Era un po' nervoso, ma pronto ad affrontare decisamente qualsiasi evenienza. Stava appena di un passo dietro il soldato, attendendo che il cassiere scendesse dal marciapiede per attraversare il corso del governatore. Allora, commossa fulmino, gettò la miscela prima in faccia al soldato, poi, dopo aver fatto un balzo in avanti, negli occhi del cassiere. L'uno e l'altro si fermarono con un grido acutissimo. Ah! Jan afferrò la borsa strappandola dalle mani del cassiere con un gesto così furioso che per poco non cadde a terra. Ripreso l'equilibrio, corse a precipizio verso la macchina mentre Filippo apriva la portiera e Ajour metteva in marcia. L'automobile si mosse prima che qualcuno si rendesse conto di quanto era accaduto. Il cassiere intanto continuava a urlare: «Al ladro! Al ladro!» Ma nessuno accorse in suo aiuto. Ognuno pensava a squagliarsela per non essere coinvolto nella faccenda. Il soldato rivoluzionario aveva lasciato cadere il fucile a terra e continuava a strofinarsi gli occhi strillando. Intanto l'automobile, imboccata alla via Zakharievska, la percorse a tutta andatura, svoltò in una via a destra, poi in un'altra a sinistra e per un pezzo errò senza meta, infilando strade dietro strade, allontanandosi sempre più dal luogo della rapina. Finalmente si fermò in una viuzza della periferia, non lontana dall'abitazione di Jan. La via a quell'ora era deserta. Jan scese dalla macchina e si allontanò dirigendosi verso casa. Ajour e Filippo, servendosi di stracci, ripulivano l'automobile e in pochi minuti la tiravano lucida come prima. Sulla targa riapparvero le stelle rosse e il numero di matricola con la dicitura «Comando». Poi la macchina ripartì. I love you. si erano distonno il brano Freedom Fight, ora si ritorna al testo di Gianluca Iacovacci. Ma non sto qui a parlare dei prigionieri che decidono di avvalersi di un avvocato per esporre giudizi che non voglio e non posso fare. Se, no, se un compagno o una compagna nomina un avvocato, resta sempre un compagno o una compagna. Non mi metto certo a fare scomuniche o giudizi, soprattutto conoscendo lo schifo dello stare in galera in queste sezioni speciali. Perciò se qualche compagno accetta un compromesso della cosiddetta difesa tecnica per risparmiarsi il periodo di villeggiatura, ne prendo semplicemente atto. Certo, poi dichiarazioni e linguaggio fanno una certa differenza. Qui non è questione di furbizia o astuzia, se ogni volta è un compromesso che bisogna accettare, visti i tempi e visto che non c'è, a quanto sembra, un limite di compromesso accettabile di coerenza, almeno di pensiero, oltre che tra pensiero e azione, soprattutto nelle lotte anarchiche, dato che tra un po' alcuni compagni organizzeranno referendum nazionali per il diritto di sabotaggio. Ci viene da ridere perché è bella come battuta, ma ci sta tutta, tralasciando i processi completamente gestiti in maniera vittimista e da denuncia sociale delle belle decise come lessi tempo fa al ring combat degli avvocati sotto il tifo di certi compagni. Se si nomina un avvocato per dibattere in aula, si riconosce non ufficialmente il ruolo del processo e le sue funzionalità, volente o no, soprattutto se gli si lascia completamente carta bianca a contrattare sconti di pena e attenuanti. È chiaro o no? Astuzie e furbizie in ambito rivoluzionario si possono riferire ad azioni dirette, azioni di guerriglia o evasioni, espropri, eccetera. Nomine avvocati per fare telefonate, colloqui in carcere o richieste per farsi mandare in carcere delle mutande non c'entrano nulla. Non fate i soliti furbetti della fuga dal dibattito scomodo buttandolo in caciara sulla coerenza e incoerenza, perché io non faccio sermoni sulla coerenza con la C maiuscola del Vangelo anarchico. Rifiutando avvocati, ho rifiutato anche lo schifo che sta intorno ai processi nel movimento anarchico, che porta avanti a pieno regime metodi, mezzi e linguaggi da diritto civile e democratico, con politiche giuridiche sorte secondo me negli studi legali di movimento e che si sono estese come tumori nelle assemblee in qualche parrocchia, centro sociale occupato e forse chissà anche negli squat. La risposta è l'iniziativa contro la repressione e il carcere, che sembrano quelle delle associazioni per i diritti umani. Un ristagno in cui si è impantanato questo movimento pseudo-anarchico di zombie e che sta marcendo in totale putrefazione. Marciume da cui me ne sono tirato fuori con la scelta di rifiutare difesa legale e una posizione impenitente di negazione. Non condivido la lotta, istanze e reclami dei corsi processuali, perché significa riconoscere l'esistenza delle procedure delle corti inquisitorie e dello Stato di diritto, lasciando tutto in mano alle arringhe difensive e riponendo in un cassetto dello studio legale i propri principi e prassi. Credo che diventi una delega alle istanze e reclami delle proprie azioni e rivendicazioni, con metodi e mezzi diventati rassegnata routine inevitabili visti i tempi e il livello di conflitto sociale, quest'ultimo famoso termometro anarcho-comunista dell'attesa con il proletariato di massa della sindrome anarchica, ridicoli. Se dovessi agire a seconda dei tempi, di cosa conviene o di quello che è più conveniente fare, me ne sarei stato a farmi dosi di eroina o mi sarei iscritto ad una rappresentanza sindacale o a fare militante da social network tra uno spinello e una birretta. Non ho voluto compromettere le mie azioni e rivendicazioni delegando avvocati che avrebbero certo fatto il loro mestiere, cioè cercare gli attenuanti ponendo avanti vittimismo, passività nei confronti della Corte, minimizzando le azioni e le intenzioni per raccimolare sconti di pena. Le prospettive che vanno per la maggior parte sono molto rasserenanti. Fregatene della coerenza dei principi, tanto ti mettono un avvocato d'ufficio, prima te ne esci e meglio è. Così molto giustificano ed esternano le loro critiche e non condivisione e punti di vista, che in realtà sono posizioni politiche ben precise, che francamente mi sembrano da poveracci, rammolliti e da vigliacchi, per chi lo fa addirittura con arroganza, senza vergogna, alla larga. Delegando e nominando un avvocato, facendo ricorsi, istanze, avrei la possibilità di farmi un po' di galera in meno, scendendo al compromesso di lasciare tutto in pasto alle speranze di concessioni e attenuanti sconti, avrei concesso dallo Stato prima la libertà? 1, 2, 3 anni, quale libertà? Una libertà amputata e sporcata, una prassi e un pensiero incoerente con le proprie idee, azioni, rivendicazioni e fatti lordati e delegati al compromesso passivo rispetto al processo. Naturalmente ci sono casi e casi, ma certe cose non sono, sono un dato di fatto, soprattutto se la difesa è delegata completamente alle astuzie di avvocati del movimento, dove tutto finisce in pericolose e fastidiose minimizzazioni e miserie tattiche. C'ero, ma passavo di lì per caso. Non si voleva fare male a nessuno, era solo un'azione dimostrativa. La FAI FRI ha messo solo una sigla, forse per sbaglio, tanto per capirci. Ad esempio, il reato associativo di cui sono accusato e condannato in primo grado si basa sui contenuti sulle mie rivendicazioni FAI FRI e, al di là del pomposo e militare linguaggio mistificatorio dell'accusa, non permetto che si minimizzi nulla in aula e fuori. Non avrei potuto accettarlo e credo dovrebbe essere una cosa comprensibile, anche se francamente ho qualche dubbio. Con chi ne sto parlando? Mi sembra di essere un superstite e di non appartenere a questo tempo di pacificazione e rassegnazione, di ammorbidimento civile e rimbecillimento digitale. E non parlo dell'esistente o della società in generale, facile dire che è colpa della società, ma dei compagni là fuori. Ho scelto di rifiutare il processo e le sue funzionalità per il principio che subentra quando un prigioniero anarchico e rivoluzionario decide di rifiutare avvocati, e cioè quello di negazione e non riconoscimento reale, non sottinteso, dal processo giuridico dello Stato contro un suo prigioniero politico e acerrimo nemico. Con lo Stato sono abituato a interagire con la violenza, ad agire in maniera illegale e insurrezionale, per questo non ho avvocati e cerco di essere, per quanto possibile, coerente con il mio pensiero o azione anarchica. E visto che sono in guerra con lo Stato e le istituzioni della Repubblica, quello che ho da riprendermi lo riprenderò con la forza, non con istanze processuali o ricorsi legali e appelli di clemenza nelle aule istituzionali dei giudici. Riguardo a deleghe e ricorsi, vorrei mettere in chiaro che non ho nominato, revocato o rinominato nessun avvocato, al di là di alcuni scambi epistolari per disponibilità di avvocati sulla piazza, visto che qualche umano dubbio che inevitabilmente ho avuto dentro nella situazione di isolamento che ho dovuto affrontare con le mie sole forze, visti i tempi. E questa era la terza parte dello scritto di Gianluca. Ora ci ascoltiamo un brano. Loro sono Eteri Teenage Riot con il brano a titolo Delete Yourself, e poi dopo si torna qui con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Squiasecchi. Yourself, and I'll send away. Delete yourself, and I'll send away. Denaro e lo mise nella propria cartella, poi avvolse la borsa, vuota, in un foglio di giornale e la legò con lo spago, facendone un pacchetto che non potesse attirare l'attenzione di nessuno. Ajour riportò l'auto in rimessa, poi con Filippo si incamminò verso l'albergo Nuova Russia, dove era alloggiato. Un'ora dopo Jan li raggiunse, era ben rasato e vestito con una certa ricercatezza. Divisero il denaro in tre parti uguali, poi bruciarono la borsa nel camino. Filippo, prudentemente come sempre, fino alla pignoleria, andò a gettare le fibbie e la serratura nel buco della latrina in cortile. Della rapina ora non rimaneva più alcuna traccia, salvo un bel mucchio di banconote. I tre soci si separarono soddisfatti. Soprattutto Jan era contento. Più che del denaro ricavato, del suo gesto audace era soddisfatto. Eseguito, sì, quello, sotto gli occhi di due celebri assi della mala, che erano Ajour e Filippo il Calvo. In generale, Baran era un uomo equilibrato, calmo, è dotato di un perfetto dominio di sé e delle sue interne reazioni, ma quel giorno non seppe dominare la sua emozione quando lo chiamarono fuori dalla cella. Per un momento credette che fosse giunta la sua ora, ma fuori del corridoio lo attendeva il veterinario. «Sei tu, Baran?» «Sì». «E che cosa vuole da me questo qui?» si chiese Baran. Il veterinario lo fece entrare nel suo ufficio antico ambulatorio e gli chiese: «Di che cosa soffri tu?» «Io? Di niente.» «Ma non ti fa mai male lo stomaco?» «Ah, sì, un po', effettivamente, qualche volta.» E subito balenò a Baran l'idea che quell'inverosimile interessamento per la sua salute potesse avere un'importanza decisiva per lui. «A dir la verità», aggiunse, «soffro terribilmente, ma mi vergogno a confessarlo.» «Ah!» E il veterinario disse: «E i reumatismi, quei suoi reumatismi, com'è che vanno?» «Oh, non me ne parli, dottore. Di notte non chiudo occhio e a volte passo delle giornate intere steso sulla cuccia senza potermi muovere.» Il veterinario prese il termometro, lo scosse e lo mise sotto l'ascella di Baran, poi si voltò a mettere in ordine i ferri in un armadietto. Baran si tolse in fretta il termometro e, senza perdere d'occhio il veterinario, ne strofinò la punta contro i pantaloni. la colonna del mercurio salì a 41, forse un po' troppo. Baranda con un energico colpo lo fece abbassare. Guardò a 37,5. Ora andava bene. In quell'istante il veterinario voltò la testa verso di lui. Baranda fece finta di aver appena tolto il termometro e di consultarlo con curiosità. «È mica tanto oggi», disse. «Ah, qui a me», borbottò il dottore. Lo guardò, poi ordinò a Baranda di tirar fuori la lingua e gli toccò con la mano la fronte. «Oggi stesso, sì, devi andare al lazzaretto». Baran ritornò nella propria cella. Aveva compreso che i ragazzi da fuori avevano escogitato qualche diavoleria per liberarlo. Non sapeva ancora con quale piano avessero proceduto, ma non aveva alcun dubbio che quella stupefacente vista del veterinario dovesse collegarsi con questo piano. Dopo il rancio di mezzodì, fu accompagnato in via Grusceva, dove in due celle erano stati messi 8 letti, 4 per cella, per i detenuti ammalati. Le celle erano anguste, i 4 letti vi stavano appena. Quella degli ammalati contagiosi era vuota. Nell'altra c'era, oltre a Baran, un solo detenuto che si era ustionato il viso e anche le mani, lavorando in cucina. C'era un solo uomo di servizio che non aveva altro da fare che andare a prendere il rancio per gli ammalati, ma al reparto femminile. Il lazzaretto, se così si potevano chiamare queste due celle, dava sul cortile nel quale i detenuti potevano uscire durante la giornata per andare al gabinetto o a prendere acqua alla fontana. L'edificio trascurato e malconcio era circondato da un'alta staccionata di legno sormontata da 3 fili di reticolato. Un guardiano vigilava il cortile e al portone ce n'era un altro che di solito se ne stava nel corpo di guardia, dove si trovava anche l'ufficio del reparto femminile. Baran si rese subito conto della relativa facilità con cui poteva tentare la fuga, ma ormai sapeva che non sarebbe rimasto a lungo al lazzaretto e quindi decise di attendere con calma che maturassero gli eventi. Forse gli abolivano la pena. L'indomani lo chiamarono in parlatorio. Tosca, appena lo vide entrare, si alzò dalla banca con un piccolo grido di gioia e gli corse incontro buttandogli le braccia al collo. Baranda sentì che la ragazza, abbracciandolo, gli faceva scivolare un biglietto dentro il collo della camicia. La sorvegliante ammonì Tosca: «Sono vietati gli abbracci con i detenuti in galera». «Oh signora, ma è ammalato ed il mio futuro sposo, non posso pensare che una donna bella come lei non sia altrettanto buona». E Tosca strizzò l'occhio a Baran, perché la guardiana non era mica una bella donna. E rabbonita, la guardiana li fece sedere sulla panca e si mise a controllare i viveri portati da Tosca per il suo fidanzato. Il pacco conteneva una bottiglia di caffè latte, del pane bianco, una salsiccia, 10 pacchetti di sigarette e 1 chilo di miele. Tagliò la salsiccia, spezzò il pane, guardò contro luce la bottiglia e poi si alzò. «La visita è terminata, signorina». E Tosca si congedò da Baran con un tenerissimo bacio. E ringraziò la sorvegliante per averle permesso di stare un po' col fidanzato e se ne andò. Baran prese il pacco delle provviste, lo portò sulla propria branda e si recò subito al gabinetto, dove dovette togliersi la camicia per poter riuscire a prendere il biglietto che Tosca gli aveva messo al collo. Era scritto a stampatello, grande e chiaro, perché i suoi compagni sapevano che non era mica capace di leggere il corsivo, e lentamente ne decifrò il contenuto. Mercoledì, che era il giorno dopo, subito dopo il rancio di mezzogiorno, vai alla fontana a lavare qualche cosa. Vedrai che i fili di ferro da quella parte saranno stati allentati quando sentirai 3 segnali di clacson. Avvicinati alla staccionata e ti aiuteremo. Ci sarà una macchina firmato Azure. Baran comprese, quindi, di essere finalmente salvo. Si sentì pieno di gratitudine verso i colleghi. Esultando di gioia, si buttò sulle provviste inghiottendo un sorso alla bottiglia e si accorse che era ottima acquavite colorata in modo da sembrare caffè e latte. Per la prima volta dopo tanti mesi beveva qualcosa di forte. L'alcol lo riscaldò e il cibo sostanzioso gli restituì le forze come per incanto. E fumò una dietro l'altra una dozzina di sigarette. Si sentiva bene, pronto a tutto. Si sdraiò sulla branda e i pensieri si rivolsero subito a Pavka, che nonostante tutto non riusciva a dimenticare. Forse per non privarsi di quell'umile ornamento della sua misera vita, sognava di lei ornandola di tutte le qualità che avrebbe voluto che avesse. Fin dal mattino del giorno seguente Baran era pronto alla fuga. S'accorse subito che i fili in fondo al cortile erano stati allentati durante la notte, che sarebbe quindi stato facile tirarli giù. Ciò avrebbero pensato certamente i suoi compagni prima di dargli il segnale, quando si sarebbe avvicinato alla fontanella. La staccionata, marcita e sbilenca, era meno alta in quel posto e un uomo di media statura poteva benissimo raggiungere la cima con le mani. E questi erano Frontline Assembly con il brano Epitaph. Ora si ritorna allo scritto di Gianluca Iacovacci. So che ci sono state impellenti fughe di notizie causate da chi non vede l'ora di diffondere qualche esclusiva. Purtroppo c'è chi ti considera in lotta e ti tiene in conto solo se nomini un avvocato di movimento per fare politica democratica in aula di tribunale sulle normative di diritto penale. Che schifo, con questi atteggiamenti si sminuisce pure la determinazione e la volontà di chi magari è stato un sostegno fuori o dentro al tribunale, nonostante sia io che Adriano non potevamo essere presenti e verso cui sono riconoscente, continuando a svilire quei pochi propositi. Non ho voluto e avuto nessun contatto con l'avvocato d'ufficio che lo Stato ha imposto per portare avanti ritualità e formalità processuali, visto che per me è uno stipendiato come tanti, non mi rappresenta e la sua obbligatorietà è come quella di attraversare sulle strisce pedonali. Non ho fatto nessuna istanza o ricorso in appello e nemmeno altre funzioni processuali dal giorno in cui ho rifiutato la difesa legale, maggio 2014. Per la condanna ho ricevuto un foglio su cui era presentato il conto. A quanto ho saputo, pare che lo Stato faccia anche i ricorsi in appello per i suoi inquisitori, pur di procedere con i suoi riti inquisitori. L'avvocato d'ufficio rappresenta se stesso e il suo mestiere, perciò non mi interessa se lo Stato applica e impone i suoi meccanismi che dimostrano soltanto il totale controllo dello stesso. Ti cattura, ti rinchiude, ti nomina avvocati, ti processa e condanna, ti concede convenienze e opportunità, decide ricorsi. Decisi che non avrei fatto ricorsi in appello pur non sapendo di questo, che comunque non saprei confermare, ed è importante questa cosa per evitare speculazioni di qualche pettegolo di movimento là fuori. Ho preso le mie decisioni prendendo forza da me stesso contro tutto e tutti i critici delle miserie, sapendo che questa mia posizione ostile e impenitente mi costerà i 6 anni che lo Stato mi ha inflitto burocraticamente in primo grado. L'ho fatto però per le mie azioni e rivendicazioni da difendere informalmente come dichiarazioni e atti di guerra, una scelta che avrei fatto, e lo dico con la forza della verità anche davanti a un patibolo, quando è vera la fame e la sete. Perché poco importa che per ora non ci mettono sulla forca, ciò non giustifica l'adeguarsi, anche solo con il linguaggio, al sistema sociale e giuridico che si combatte. Non ti eliminano tramite sentenze nello scontro fisico e altra questione, ma ti spersonalizzano, annientano e isolano, ora ci murano vivi per anni in cattività, il che non è poco. I tempi li conosco bene, perché non ho preso un istante della mia vita, ho perso un istante della mia vita ad avere ben chiaro chi è il nemico che combatto, che ti dà la caccia, ma anche io predo, che ti vuole fare fuori, ma io non sono da meno. I tempi li ho conosciuti nella cella liscia in cui mi rinchiusero per punirmi, nelle celle putride in cui sono transitato quando dopo l'udienza preliminare venivo trascinato per il corridoio dalle guardie e gridavo all'anarchia nell'internamento. Sono quasi 2 anni che sono recluso ed è trattenuto nell'adeguatezza umana e della giustizia civile in una stanza, un corridoio e una vasca di cemento dove mi portano a passeggio come i cani, in questo caso come gli umani. Non è meglio né peggio di qualsiasi altra condanna o reclusione su altri viventi, a dimostrazione dell'eguaglianza nelle logiche civilizzate sulla reclusione. Ma non sono finito, ho vittima di un presunto addomesticamento che subentrerebbe solo con questa reclusione a tempo determinato, secondo alcuni, lo dimostra la mia combattività e coscienza rivoluzionaria, le mie scelte inconvenienti e le mie parole che superano questi muri e le sbarre, arrivando a chi la giusta volontà e la determinazione di scuotere il tepore con la solidarietà rivoluzionaria e non con le chiacchiere. Pensate che nominando avvocati, facendolo addosso ad ogni colpo del nemico o piegandosi alle passività a concessione si facciano trionfare il selvaggio o l'anarchia insurrezionale? Credete che là fuori la vostra libertà non sia condizionata dalle coercizioni della civilizzazione, dall'addomesticamento e pacificazione? Lo è dal giorno in cui le nostre madri ci cagano su questo mondo. Riguardo al rapporto tra i tempi e le scelte che si fanno e le azioni da intraprendere, purtroppo vedo ancora chi scrive superficialmente che i tempi sono cambiati e che certe cose si facevano iconizzati nell'anarchismo. I tempi vanno e vengono, perché oggi la, tra smartphone e automobili nel mondo se ne va, non ve ne siete accorti, sembra di vedere le avanzate dell'impero persiano tra una crocefissione o decapitazione islamica e una camera a gas negli Stati Uniti, un biocidio occidentale nelle nostre terre, gli schiavi neri nei campi di pomodori sotto casa vostra e le galere sono sempre di ferro e cemento. Le pratiche violente del regime democratico non le sentirete sedute davanti al computer o imboscati nel magma sociale o nella fasulla convivialità metropolitana che funziona grazie alla coercizione dell'ordine. Se sono cambiati i tempi, non criticate gli schiavi digitali della lotta sui social network e le irreversibili decadenze dei centri sociali, movimenti e collettivi vari armati di tastiere o mouse e parole chiave della rivoluzione proceduta dal cancelletto, e poi mette il simbolo del cancelletto. Le cerimonie e i riti sfarzosi del potere non sono cambiati, sono invece gli anarchici, perché state soltanto autoregolandovi il livello di compromessi accettabili e dei mezzi linguaggi al ribasso necessari per giustificare voi stessi. Vorrei solo che si ammettessero alcune cose invece di criticare e giudicare chi è coerente con le sue idee anarchiche e rivoluzionarie, altrimenti chiedetevi cosa vi rende così indulgenti e concilianti, tanto da crearvi delle misere giustificazioni, esternandole senza vergogna e addirittura con arroganza, una cattiva memoria alle le convenienze e comodità o la codardia. I personaggi ottocenteschi e novecenteschi ve li create voi, come altri hanno fatto prima, ribelli e banditi martirizzati dagli opportunismi letterari, personaggi tanto citati che a sentirvi vi sputerebbero in faccia, come quello che usano gli schiavi della rete di Occupy, Indignati e altri socialisti di internet. Vedo che tanti citano un certo Henri con una frase sul condannato che sale al patibolo. Non conosco la storia di questo Henri, ammetto che non sono un gran lettore da studi e odio l'overdose intellettuale, ma a sentire come vengono esposti certi punti di vista e come alcuni hanno esposto le loro critichette sulla mia decisione antigiuridica, mi viene da dire che proprio voi, bravi filosofi anti-autoritari del salotto anarchico, mi sembrate quella gente ancora tutta tremante mentre il condannato sale a patibolo. Questa era l'ultima parte per oggi della lettura del testo di Gianluca Iacovacci. Il resto lo riprenderemo venerdì prossimo nella prossima diretta d'azione. Invece ora ci ascoltiamo prima un brano e poi dopo ci ascoltiamo l'ultima lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Alle 11:45 minuti dalla rimessa del comando partì l'automobile che il delegato Asia aveva chiamata per telefono. Pochi minuti dopo si fermava davanti all'ingresso principale dell'albergo Europa e subito apparve Filippo. Vedendolo, la bocca dell'autista si allargò in un sorriso che andava da un orecchio all'altro. Aveva una gran simpatia per quel personaggio che si dava così poche arie e si mostrava tanto generoso con lui. Filippo gli ordinò di portarsi all'altezza del ristorante Select, come i fagioli, ora adibito a mensa collettiva. Qui lo fece scendere e lo condusse nel cortile dell'edificio da dove si accedeva ad un locale clandestino fornito di ogni ben di Dio, camarone ma compagni. Filippo entrò in una saletta separata. Ha detto il Papa, lascia sta no, perché facciamo una digressione. L'ha detto il Papa. Alle nostre latitudini, quella cosa che, ha detto, che hanno detto, che ha detto il Papa, non è un buon augurio, ma anzi, cioè, noi ci facciamo gli scongiuri, come si dice dalle parti nostre, quando qualcuno ci invita a essere accompagnati da Vergine Immacolata. Immacolata. Allora Filippo entrò in una saletta separata e ordinò una bottiglia di vodka e anche un piatto di salsiccia calda, ma sempre immacolata. Dopo aver bevuto un bicchierino, si alzò e disse all'autista di attenderlo senza muoversi di lì fino al suo ritorno. Quindi poi pagò il conto e uscì in fretta. Ajur era già al volante e in pochi minuti raggiunsero il recinto del lazzaretto. Si fermarono all'angolo della strada dove li attendeva Jan, che inosservato teneva d'occhio il cortile della prigione. A un certo punto aveva visto Baran dirigersi con un asciugamano verso la fontanella e aprire il rubinetto e mettersi a lavare quello stesso asciugamano. Il guardiano era occupato a sorvegliare una fila di donne che uscivano per la solita passeggiata. Baran, dentro, sentì che una macchina si era fermata dietro la staccionata. Ora attendeva, guardandosi attorno con la coda dell'occhio, pronto a scattare al primo segnale del clacson. Jan andò incontro a Filippo. «Tutto bene, il mongolo, e lì è la fontana che aspetta». La strada dava su un lotto di terreno da vendere ed era deserta. Ajur, con le mani sul volante, osservava i compagni che si avvicinavano allo steccato. Accanto a lui, sul sedile, erano posate due rivoltelle cariche. Filippo il Calvo e Jan presero i due lunghi pali che avevano portati durante la notte, celandoli tra le ortiche che crescevano folte ai piedi della staccionata. Puntellandone le estremità contro il filo spinato, lo sollevarono in modo tale che Baran potesse facilmente scavalcare lo steccato. Ajur, ad un cenno di Filippo, premette tre volte il bottone del clacson. Baran si guardò rapidamente attorno. Il guardiano si trovava ad una ventina di metri da lui e gli voltava le spalle. Non lo separavano che pochi passi dalla staccionata. Fulmineamente si precipitò verso di essa, nel punto in cui il reticolato era tenuto sollevato dai pali, e nello stesso istante sentì una voce di donna gridare: «Oh, ma guardate, guardate, che cosa fa quello là?» Era una detenuta in galera che, colpita da quanto aveva visto, si era lasciata sfuggire quel grido senza pensare che per colpa sua poteva fallire un piano di fuga preparato con tanta fatica. Il guardiano si voltò di scatto e, afferrata la rivoltella, premette più volte il grilletto in direzione di Baran, che in quel momento spariva però dietro la staccionata. Jan e Filippo abbandonarono i pali e insieme a Baran si precipitarono sulla macchina, che era già in movimento. Il guardiano diede l'allarme, continuando a sparare all'impazzata, ma i dritti, sì, i dritti, oramai erano lontani. Filippo, fregandosi le mani, si lasciò scappare tutto eccitato. «Bel colpo, per Dio, e sono due, con oggi!» Ma non era lecito un vecchio dritto di tradire le proprie emozioni, perciò si ricompose e sbadigliò con noncuranza. «Stamattina», disse Jan, «era solo un semplice arraffo in stile moscovita. Oggi, invece, oggi è stato un vero e proprio sequestro di persona». Filippo sporse con disdegno il labbro superiore. «Beh, Chiamali come vuoi, quel che importa è che tutti e due i colpi sono riusciti grazie alla macchina gentilmente messa a disposizione dal delegato del Comitato Centrale Rivoluzionario, il compagno Asia. Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.